Deus, Deus Caritas Est, pubblicata mercoledì scorso, è la prima enciclica di Papa Ratzinger, Benedetto XVI. È divisa in due parti. Nella prima, il Papa tratta della concezione dell'amore cristiano, difendendolo dall'accusa di avversione alla corporeità, difendendolo dall'accusa di aver distrutto l'eros, mentre la seconda parte, che diciamo una pars construens dopo la destruens, tratta dell'esercizio concreto del comandamento dell'amore verso il prossimo. Contro l'illuminismo e contro la filosofia moderna, di cui Nietzsche sarebbe un campione, ma anche contro gli antichi filosofi greci, che avrebbero visto nell'eros l'ebbrezza, la sopraffazione della ragione da parte di una pazzia divina che strappa l'uomo alla limitatezza della sua esistenza. Il Papa, contro tutto ciò, reclama le virtù di un cristianesimo che nell'intima unione di corpo e anima costituirebbe l'unica garanzia contro la degradazione e la mercificazione del sesso. Non nega alla fin fine la tesi che gli attribuisce ai greci, perché sì, è vero, l'eros vuole sollevarci verso il divino e la possibilità c'è. Diversi sono i mezzi. Laddove loro, gli altri, vanno dritti al sodo, lui dice che all'estasi, a quella vera, ci si arriva dopo un cammino di rinunce, di purificazioni, secondo un modello che io applico da tempo alle sigarette, no? Più ti astieni, più poi te la godi. Ma noto che Papa Ratzinger non cita San Francesco, laddove, consapevole dell'aleatorietà di un amore che non sia diretto verso i fratelli, invita a mostrarlo questo amore, non a parole soltanto, ma con i fatti e in verità. Al contempo il governo annuncia una legge che, più che estendere il concetto di legittima difesa, definisce alcune circostanze in cui si legittima l'offesa pesante, quella che costa la vita. Puntuali allora, anzi leggermente in anticipo, giungono al bersaglio i 13 colpi di pistola sparati sull'albanese a Castelnuovo del Garda da un ex assessore della Lega Nord. Al contempo ci giungono notizie del frate fedele da Cosenza. Francescano fin nel midollo, l'avevamo lasciato nel 97 dopo l'incontro con quella Luana Borgia che, ecco, se proprio in un'enciclica era destinata a non essere mai neppure nominata, tuttavia in Luana la porcona e in Le doppie bocche di Luana fu di certo la protagonista principale. Un incontro dal quale, secondo i giornali, sortì una conversione. L'avevamo ritrovato poi questo frate fedele a capo degli ultras del Cosenza a combattere una vana battaglia per la sua permanenza nel calcio professionistico e ora lo ritroviamo come accusato di pesanti accuse. Anche se non vediamo l'ora che lo si dimostri vittima di un complotto, perché un complotto non si può negare a nessuno se non iniquamente negandogli fin la possibilità che al mondo possano esistere dei complottanti nei suoi confronti, e perché è sempre bene che i reati di cui lo si accusa non siano stati affatto commessi, non possiamo esimerci dal far notare alcune incongruenze fra ciò che questo frate dice e la pratica francescana alla quale i suoi comportamenti tutti dovrebbero essere informati. Ora, già il fatto Già il fatto che un frate francescano abbia un segretario mi preoccupa. Ma e anche che abbia partecipato all'inaugurazione dell'erotica tour di Bologna lascia qualche perplessità. Poteva anche andarci il giorno dopo e non sarebbe cascato il mondo. I brani scelti dalle registrazioni delle sue telefonate, con uno zelo degno di migliori cause passate prontamente ai giornali. Beh, questi brani poi, saltando da un particolare anatomico all'altro del suo grigio di pecorelle, non sembra temperare con stretta osservanza la regola del suo ordine monastico. Ma che fra le argomentazioni con cui reclama a gran voce la propria innocenza, in cerca di una dimostrazione matematica per convincere i più riottosi di non avere mai e poi mai stuprato né suore né altre, che chieda la pubblicazione della fotografia di una vittima o presunta tale in questione, questo sinceramente per me è troppo. Non si adeguerà granché al paradigma di esistenza suggerito dal poverello di Assisi, questo frate fedele, ma in compenso risulta più che prono, questo frate fedele, più che prono al paradigma estetico imperante e alla funzione persuasoria che questo paradigma svolge surrettiziamente nella riproduzione sociale delle disparità. Ma chi è? Sembra abbia detto il frate. Ma chi è? Luana Borgia? Vabbè, e qui gioca in casa. Ma chi è? Brigitte Bardot? E chiede se l'abbiamo vista, questa suora che millanterebbe lo stupro. Bassa, tozza, grassa. E ancora, per l'appunto, chiede che venga diffusa la sua fotografia affinché noi tutti all'unisono ci si possa render conto della sua palese innocenza. Sarà frate, ma prima è maschio, razzista e reazionario, fiducioso nella stupidità altrui, dimentico peraltro della tradizionale bruttezza del peccato e, come tale, colpevole. Sarebbe il momento di tornare ai tempi di Luana Borgia. Le conversioni come minimo si fanno in due, uno che converte e l'altro che si converte. Nessuno all'epoca mai ha indagato a fondo su chi dei due avesse convertito l'altro. Eros distrutto, avversione del cristianesimo alla corporeità. Ma tutte balle. Puntuale, anzi leggermente in anticipo, a dare consistenza alle tortuose argomentazioni di Papa Ratzinger, arriva frate fedele da Cosenza.